بسم الله الرحمن الرحيم جزء عما سورة dell'annuncio capitolo 78 del sublime Corano rivelata alla Mecca consta di 40 ayat e scesa dopo la sura al-Ma'arij sura 70. Nel nome di Allah, il sommamente misericordioso, il clementissimo, su cosa a vicenda essi l'un l'altro si fanno domande? Sullo sconvolgente annuncio della resurrezione, riguardo alla quale non sono d'accordo. No, no! Tra non molto sapranno inconfutabilmente la verità. E poi no, no, tra non molto la sapranno inconfutabilmente. Non fummo noi che abbiamo fatto la terra come un tappeto e i monti come piuoli? Noi vi creammo a paia, facemmo il vostro sonno riposo, facemmo la notte copertura, facemmo il giorno tempo per vivere, costruimmo su voi 7 firmamenti, creammo il sole, luminosa lucerna, e facemmo scendere dalle nuvole acqua abbondante per far uscire granaglie e vegetali dalla terra con essa e giardini lussureggianti. In verità, fissato è il dì del giudizio senza appello, il dì nel quale si soffierà nel corno e dalla terra uscirete a frotti. Il cielo sarà aperto e tutto porte, e i monti come un miraggio svaniranno. In verità, l'inferno è un agguato, dimora per i ribelli ad Allah, che in essa soggiorno avranno senza fine. In essa non gusteranno frescura né bevanda, se non hamim e ghassaq, come meritata ricompensa della loro infedeltà. In verità, essi non si aspettavano la resa dei conti e per questo motivo i nostri segni accusavano di falso, mentre noi prendavamo nota per iscritto di ogni cosa. Perciò gustatele le pene dell'inferno e non vi aumenteremo se non il castigo. In verità, per i timorati è approntato un luogo di trionfo, giardini e vigne, kawaiba atraba e una coppa traboccante di bevanda paradisiaca. Nel paradiso i beati non udranno vaniloquio né menzogna come ricompensa del tuo Signore, da loro meritata come congruo riconoscimento della loro fedeltà, del Signore dei cieli e della terra e di quanto esiste tra questa e quelli, del sommamente misericordioso. Non otterrà da lui la parola nel giorno in cui lo spirito e gli angeli si schiereranno, non parlerà se non colui al quale il sommamente misericordioso avrà dato il permesso e quindi a buon diritto parlerà. Quel giorno è il giorno della verità e chi vuole prenda la via del ritorno al suo Signore. In verità, noi vi abbiamo avvisato di un castigo imminente che seguirà il giorno nel quale l'uomo vedrà ciò che le sue due mani hanno mandato avanti e nel quale chi rifiutò di credere dirà: «Povero me, fossi polvere!»